Carissimi, questo Vangelo di oggi, Giovanni, capitolo 17, versetto dal 20 a seguire, mi consente di parlarvi di Dio e della sua vita intima. Mi spiego. Qualche volta fa io avevo detto una battuta che io non credo in Dio perché io credo nella Trinità, non credo in un Dio qualsiasi. Nel mondo ci sono tante religioni che parlano di Dio, il mio Dio è un Dio Trinità e lo ripetiamo tante volte col segno di croce, lo ripetiamo dicendo sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lo ripetiamo, se stiamo attenti, dicendo il gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Lo ripetiamo con il credo. Purtroppo però, spesse volte il cristiano non è attento a pregare la Santa Trinità, perché raramente ci viene spiegata e noi non conosciamo la vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oggi ci viene svelato un piccolo particolare, cioè che Gesù, il Figlio, e il Padre sono unitissimi. Il nostro è un Dio uno e trino, ma anzitutto è uno. E se noi ripercorressimo bene il Vangelo, troveremo delle pagine meravigliose dove Gesù parla della sua unità con il Padre. Io non sono venuto per fare la mia volontà, ma per fare la volontà del Padre mio che è nei cieli. E prima di risuscitare Lazzaro dice: Padre, io lo so che tu mi ascolti sempre, ma lo sto dicendo per questi qui che mi stanno ascoltando. Padre, glorifica tuo Figlio. Cari cristiani, io vi assicuro che se avessimo la voglia, che ci vuole la voglia, e il desiderio di approfondire un pochino la vita di Dio, perché poi bisognerebbe parlare dello Spirito Santo, e lo faremo, noi comprenderemmo come la vita trinitaria di Dio non solo è bella in se stessa, ma si ripercuote nella natura, nella nostra vita. L'unità tra il Padre e il Figlio ci dice che questa realtà dell'unità è il fondamento della vita umana. Cercherò di spiegarmi. Noi tutti assistiamo nella nostra vita di tutti i giorni alla disunità. È impressionante vedere la disunità che c'è nel mondo. Le guerre, le battaglie, le guerre di tutti i tipi, fatte con le armi, fatte a suon di dollari, fatte a suon... Sembrerebbe che ognuno va per la sua strada, eppure, a ben guardare, l'unità è scritta dentro nella natura. Cercherò di farvi qualche esempio, spero che non lo riteniate banale. Perché il cosmo, l'universo, i sistemi planetari, perché le galassie stanno? Perché vivono in unità con delle leggi universali. Non so se mi seguite. Perché la Luna gira e non cade addosso alla Terra? Perché tutti i pianeti del Sistema Solare girano? Non c'è una legge di unità tra di loro? Perché il nostro mondo, la nostra natura umana, vive in perfetta unità e quando succede qualche disastro, un terremoto, uno tsunami o qualche cosa, è perché questa unità si rompe? O ancora, come nasce un figlio? Non nasce dall'unità, dall'abbraccio di un uomo e di una donna? E come mai una pianta di mele produce i frutti delle mele? Perché gli stami e i pistilli si uniscono e fanno frutto. Tu guardi un albero, un pesco, un melo pieno di fiori, ma non tutti quei fiori diventano frutto. Diventano frutto solo se c'è stato l'unirsi della parte maschile e della parte femminile. E nell'amore, non è che quando c'è l'unità si sta bene? E in una famiglia, quando invece c'è la divisione e la disunità, sono guerre e combattimenti? Addirittura in ciascuno di noi o c'è l'unità, ma se c'è la divisione è una malattia. Si chiama schizofrenia, si chiama dissociazione. Magari io litigo con un'altra persona e poi non sono contento. Farete anche voi questa esperienza, no? Dopo che hai litigato, tu continui a ripetere a te stesso le tue ragioni. Però quello mi ha detto così, allora... Quasi quasi che tu vuoi convincere te stesso che hai litigato, ma tu avevi ragione. Sei così poco convinto che continui a ripeterlo a te stesso. Noi siamo chiamati all'unità. E questa unità viene dall'unità di Dio. E poi Gesù dice: Padre, concedi ai miei discepoli quell'unità come io e te siamo una cosa sola, anch'essi sulla terra siano una cosa sola. Purtroppo questo è il peccato, la divisione, la disunità, ed è frutto di Satana. Diavolo nella lingua greca vuol dire colui che divide. In ogni divisione di qualsiasi tipo c'è di mezzo il diavolo, il peccato. In ogni unità c'è di mezzo Dio. Si canta in un bel canto: dov'è carità e amore? Qui c'è Dio, lo conoscete. Dov'è carità e amore? Qui c'è Dio. Capite allora che poteva sembrare teorica la mia predica, e invece guardare nella vita intima della Trinità ci permette di vedere la legge che poi c'è nella vita, e la prima legge è l'unità. Poi questo Vangelo, dirò solo una parola ancora, ha un altro spunto molto bello. Gesù dice: Padre, vedete, sempre è in dialogo col Padre. Ripeto ancora una volta, se avessimo la pazienza e la voglia di seguire il dialogo di Gesù col Padre, scopriremmo anche il Padre nostro. L'ha detto Gesù questo. E dice: Padre, voglio che quelli che mi hai dato, cioè noi, siano anch'essi con me dove sono io, affinché vedano la mia gloria. E dov'è Gesù? In paradiso. Pensate, Gesù chiede al Padre: concedimi di portarli in paradiso. Cari cristiani, qui proprio noi non... questo sfugge alla nostra realtà. Noi siamo giustamente legati alla vita, tant'è vero che la morte è per noi il disastro più grande, ed è vero, ma forse avremmo bisogno di un po' più di vita cristiana per capire il paradiso. Concludo con un episodio che mi raccontava un sacerdote milanese che andò con altri suoi amici sacerdoti a visitare l'India. Andò nella città santa di Benares e alla propria guida locale disse: come si vive in India? E quest'uomo rispose: in India si vive molto duramente, come vedi. C'è molta fatica di vivere, ma noi siamo contenti di morire. Questi tre preti si guardano in faccia e dicono: ma come? Sì, perché poi noi rinasciamo. Loro credono nella reincarnazione, no? Si sono guardati in faccia e hanno detto: dobbiamo venire dall'Italia fino all'India per sentire una professione di fede, di un'altra fede, una fede indù, e noi che abbiamo Gesù che muore e che risorge, non ci ricordiamo e in definitiva non ci crediamo al paradiso. In India noi viviamo molto male, ma si muore molto bene, perché noi crediamo nella vita che avremo ancora dopo la morte. Padre, voglio che quelle che mi hai dato siano con me, dove sono io, paradiso.